Linee d'ombra di Matteo Caccia. In quei momenti non è che vai a pensare cosa stai facendo, dove sei, fai perché devi risolvere la situazione e portare a casa le persone. La paura ti viene dopo, a pensare quello che hai fatto. Nel preciso istante in cui il treno passò dal passaggio a livello, lei si lanciò come una pantera, ma io ero lì, in mezzo, e lei non riuscì ad attraversarmi. Storie di una serata movimentata e di una notte qualsiasi al pronto soccorso in una puntata che si intitola Prima che sia troppo tardi. In quel primo anno di filosofia il professore ci assegnò un esercizio di proiezione nel futuro che chiamò lista del capolinea. Dovevamo scrivere una lista di tutte le cose che avremmo voluto fare prima di arrivare al capolinea. Carino. Comunque io scrissi cose come fare $1,000,000, primo presidente nero, sai no? Fantasie giovanili. Baciare la più bella ragazza del mondo. Farsi tatuare. E questo è il massimo delle tue ambizioni? Edward, io sono parecchio più profondo di te. Ma il dottor Hollins che ha detto? Ci restano pochi mesi. Un anno al massimo. Dicevi che ti sono volati 45 anni? Possiamo attuarla. Dobbiamo attuarla. No, io non posso. Non stare a preoccuparti dei soldi, ne ho io per te e per me. Ma io non lo so, io... Che cos'è che non sai? Voleva essere una cosa metaforica. Stavo solo cercando di capire... Bla, bla, bla. Ti lagnavi di non aver fatto quello che volevi. Adesso hai una chance. Per fare cosa? Coprirmi di ridicolo? Non è mai troppo tardi. Le voci di Morgan Freeman e di Jack Nicholson, o meglio, le voci dei loro doppiatori, come sempre succede qui in Italia, nella famosa scena della lista di quel film che si intitola Non è mai troppo tardi, perché la puntata di oggi, la puntata di Linee d'ombra di oggi, si intitola Prima che sia troppo tardi, e vi racconteremo due storie che raccontano una di un salvataggio, di fatto, e l'altra invece racconta di che cosa succede quotidianamente in un pronto soccorso in cui le persone che si trovano lì salvano la vita di altre persone che arrivano in maniera inaspettata, perché spesso e volentieri quando si arriva al pronto soccorso si arriva senza saperlo magari un'ora o due ore prima. Non ha a che fare con l'emergenza di cui vi raccontano dappertutto oggi, che stiamo più che raccontando stiamo vivendo oggi, legata al Covid-19. Sono storie che sono in un libro di un autore che si chiama Mascalic, un libro pubblicato da Einaudi qualche tempo fa. Noi continuiamo a raccontarvi le nostre storie in queste giornate molto particolari. Vi chiediamo anche di continuare a raccontarle le vostre storie, perché a linee d'ombra@radio24.it noi continuiamo a raccoglierle, è una sorta di canale sempre aperto, e stiamo raccogliendo storie diverse in questo periodo, visto che questa emergenza la stiamo vivendo tutti, tutte le nostre vite sono cambiate, io in questo momento sono a casa mia, quindi è probabile che sentiate magari il rumore della lavastoviglie alle mie spalle, perché diciamo non ho esattamente uno studio radiofonico, ho una stanza che cerco di ovattare con delle grucce di abiti che assorbono la voce e con il migliore microfono possibile per queste situazioni. Tutti quanti stiamo facendo il nostro dovere da casa. Anita Panizza la sta facendo a casa gestendo i suoi due bambini, Paolo Corleoni lo sta facendo montando le puntate e lavorando insieme a noi, e Luca Micheli uguali, e Mauro Pescio idem. E immaginiamo così anche voi. Quindi vi dicevo, le storie che stiamo raccontando e che vi stiamo chiedendo di inviarci sono, la prima categoria è la solita, cioè sono le storie di Linee d'ombra, storie che abbiano un confine in mezzo che voi avete valicato in un qualsiasi momento della vostra vita, una storia che in qualche modo racconta qualcosa di voi, e la mandate a linee d'ombra@radio24.it, altrimenti ci mandate una storia di questo diario, di queste giornate, un diario di queste giornate che state vivendo in questo momento così complicato, paradossale e assurdo per certi versi. Se la vostra vita è cambiata radicalmente perché siete sempre a casa, perché invece andate a lavorare ma in un modo diverso da come ci andavate e come lavoravate prima, insomma in qualsiasi modo lo vogliate fare, il diario che racconta come state vivendo queste giornate in una pagina ce la mandate a linee d'ombra@radio24.it e noi lo raccontiamo per voi. E poi stiamo anche raccogliendo dei messaggi audio che raccontino invece delle piccole storie di rinascita, cioè delle piccole storie che riguardano un momento della vostra vita in cui è successo qualcosa che vi ha fatto tornare a nascere, semplicemente perché ci piace già immaginare come sarà quando tra un mese, due mesi le cose riprenderanno lentamente a tornare alla normalità e quindi rinasceremo a vita nuova, così speriamo di fare ovviamente tutti quanti il prima possibile, ma noi continuiamo a fare quello che facciamo perché davvero raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo, noi ne siamo convinti, ma anche il modo migliore molto semplicemente per passare il tempo se per caso ne abbiamo da passare, proprio come in questi giorni. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Quella sera di tanti anni fa, tra la fine dei ruggenti anni 80 e l'inizio dei 90, qualcosa mi sussurrò silenziosamente nella testa di non fare la stessa strada di sempre per tornare a casa. La sera, o meglio la notte, era molto calda e ritornavo da una serata in una discoteca di Mestre, una discoteca in gran voga alla fine degli anni 80. Una bella serata. Ovviamente a 20 anni circa non si era battuto chiodo con le ragazze. Il gin tonic però aveva fatto il suo effetto per curare le delusioni mascoline. Gli etilometri allora esistevano solo nei film americani. A quell'ora della notte il terraglio, cioè la strada che da sempre collega Mestre a Treviso, era piena di vita. Quella sera la mia Ford Capri azzurra, regalo di mio padre, dalla forma americaneggiante, solcava pigramente quel mare di umanità varia. E proprio a metà strada, a Mogliano Veneto, avrei dovuto svoltare a sinistra verso Scorzè per concludere il mio viaggio. Non so perché, ma a quell'incrocio decisi di andare oltre, di allungare la strada, con la scusa di ascoltare una canzone e svoltare al paese dopo, a Preganziol. E così fu. Allora, in quella strada che parte da Preganziol e passando nella campagna va verso Zero Branco e poi Scorzè, c'era all'inizio un passaggio a livello sulla linea che da Venezia porta i treni a Treviso e a Udine. Non esisteva il sottopassaggio che adesso fa evitare agli automobilisti lo spettacolo del passaggio di più di 100 treni al giorno. La mia macchina sobbalzò sulle rotaie e cominciò ad ondeggiare tra le curve che seguivano quando una luce bianca mi colpì in pieno negli occhi. Era la luce di un faro di un motorino che, percorrendo il senso opposto, aveva deciso di tagliare la curva. In quegli anni i motorini erano veramente i mezzi più usati dai ragazzi. Evitai l'impatto per un soffio. Il livello di gin tonic era già sceso, per fortuna. Maledicendo il guidatore, continuai la strada ed ecco, poco più avanti, che i fari dell'auto, non molto potenti come quelli di oggi, cominciarono a rischiarare in lontananza qualcosa in mezzo alla strada. Sì, vedevo qualcosa in mezzo alla strada. Rallentai e mi avvicinai piano piano. Sembrava un tappeto. Cosa ci fa un tappeto in mezzo alla strada, mi chiesi. A 10 metri mi fermai e il tappeto si trasformò in un cumulo di vestiti che occupava per traverso la sede stradale. Era l'una di notte nella campagna. Che fare? Era buio, non passava nessuno. Il cumulo di vestiti, tra l'altro, si mosse da solo. C'era qualcuno lì dentro. Imprecando di nuovo, decisi di scendere per vedere cosa fosse. Sopra quei vestiti capii. L'odore di alcol era così forte che il mio del gin sembrava Chanel al confronto. Un qualcosa che sembrava vagamente un ragazzo disteso sull'asfalto si girò. Le sue prime parole furono: «Dov'è?» «Cosa?» gli chiesi io. «È il motorin», mi disse. «Ma non c'è nessun motorino qui, ma uno mi ha quasi colpito, andava verso il passaggio a livello». «Je vol mazza», mi dice. «Si vuole ammazzare». «Chi?» ti chiedo. «La memorosa, gavemo litigà». Io avevo 20 anni, lui avrà avuto 17, 16, 17 ed era disteso sulla strada. Quindi, diciamo, queste erano le nostre età. Lui era in motorino, io avevo questa macchina da poco regalata a mio padre. E ho pensato che cos'era e poi ho pensato che scendendo dalla macchina mi prendevo un rischio, essendo l'una di notte in mezzo al buio, in mezzo al nulla, che forse non dovevo prendere. Poi ho pensato quella famosa parolaccia che viene ripetuta nel testo e sono sceso dalla macchina perché ho detto: non posso lasciarlo morire qua. Decisi di caricare in macchina quel grumo di ragazzo, vestiti e grappa, girare la macchina e tornare verso il passaggio a livelli. Riprendiamo. Nel tragitto gli chiedo: come si chiama? Priscilla, mi dice. Dopo 2 minuti per me eterni, tra adrenalina e odore di alcol in abitacolo, siamo al passaggio a livello. Il motorino era lì, appoggiato all'involucro bianco e rosso che contiene il motore che solleva le sbarre. Un lampo mi colpì la mente e non era il faro del motorino, capii subito. Dissi al grumo di non muoversi e scesi. Salì in mezzo al passaggio a livello, guardando a sinistra e poi a destra e... sì, c'era qualcosa in lontananza, proprio in mezzo ai binari. Cominciai a camminare avvicinandomi a qualcosa che sembrava un sacco disteso. A 5 metri quel sacco cominciò a prendere le forme di una ragazza. Venere disegnò le sue curve adagiate su due linee metalliche. In effetti una tuta attillata mostrava tutto quel panorama che un ragazzo come me, allora un po' timido, immaginava come un onirico parco giochi, ma non si muoveva. A 2 metri mi fermai e osservai la scena. Avete presente quei vecchi cartoni animati western dove la bella viene distesa sui binari, legata con la testa appoggiata sul freddo acciaio da una parte e i piedi dall'altra? Perfetto, la scena era la stessa. Ma invece di gridare, stava dormendo. Quando le fui accanto, capì che era la sua fidanzata, ovviamente. L'odore di alcol era lo stesso, sia come tipo, sia come intensità. Cominciai a scuoterla. Lei si svegliò farfugliando qualcosa. Non è un bel modo per andarsene, le dissi, o almeno non è la soluzione più intelligente. Non sapevo cosa dirle di meglio e feci appello a tutti i telefilm che guardavo in quegli anni, tipo Chips, Baywatch o Magnum P.I. Riuscì ad alzarla da terra, prenderla di peso sotto braccio e avviarmi verso il passaggio a livello. Devo dire che mi ricordo le sue curve morbide appiccicate a me, i suoi capelli neri, lunghi e ricci che si muovevano, e i suoi occhi. Ma non ebbi il tempo di perdermi in questi pensieri. Il segnale della linea dei treni, che troneggiava poco prima del passaggio a livello, passò da rosso a giallo. Mio zio all'epoca lavorava nelle ferrovie dello Stato e mi aveva spiegato che quando il treno arriva, il segnale passa da rosso a giallo a verde. Dopo questo pensiero, il successivo fu tragico. Anche io ero tra quei binari e certamente non volevo suicidarmi. Accelerai il passo anche se Priscilla trascinava i piedi. Con grande sforzo riuscii quasi ad arrivare al passaggio a livello quando il segnale passò e diventò verde. Il treno stava per arrivare, ma le cose si complicarono ulteriormente. Davanti a noi, tra i binari, si materializzò il grumo di grappa che avevo lasciato in auto, gridando «Mi te voglio ben!». Sentì Priscilla irrigidirsi, bloccarsi. Sentivo i secondi scorrere come il sudore che mi scendeva sulla schiena. Il grumo disse «Senza de ti non posso vivere e te lo dimostre». Prese la rincorsa e andò a sbattere la testa contro un palo che sosteneva i fili dell'alta tensione che alimentano i motori dei treni, cadendo semisvenuto. Sì, I fili li vidi cominciare a muoversi e non era per la testata. Il treno ormai era quasi lì. Lasciai per un attimo Priscilla, raccolsi il grumo ormai completamente rincoglionito e lo spinsi fuori dai binari. Non amo gli spruzzi di sangue. Tornai da Priscilla, la convinsi a muoversi, tanto il grumo era KO, e la accompagnai fuori dai binari oltre le sbarre. A quel punto il tempo è una variabile che non controlli più. Diciamo che a spanne sarà stata una mezz'oretta tra capire, anche meno, perché alla fine io l'ho raccolto e sono arrivato lì e sono sceso sui binari. Quindi diciamo più o meno può essere stata una mezz'ora il tutto fino alle sbarre. E poi qualche ora lì a stare a ascoltare che parlavano. Nel preciso istante in cui toccammo nuovamente l'asfalto, cominciarono a suonare le campane del passaggio a livello e le sbarre ad abbassarsi. Il grumo e Priscilla cominciarono più o meno a parlare tra loro. Penserete, come me, quella volta che era fatta, che era finita. E invece no. Mentre le orecchie mi avvisavano che il treno stava arrivando, vidi che gli occhi di Priscilla non guardavano il grumo che parlava, guardavano le sbarre. Io cominciai a muovermi molto lentamente. Ormai ero colpito dal vento che si muove davanti al treno che, ecco, il lampo attraversò gli occhi di Priscilla. Fu un attimo. Scansò il grumo e nel preciso istante in cui il treno impegnò il passaggio a livello, lei si lanciò, come una pantera, verso l'animale sferragliante. Ma io ero lì, in mezzo. E come sostiene la teoria di impenetrabilità dei corpi che avevo studiato al liceo, lei non riuscì ad attraversarmi. Nel frastuono del treno che passava dietro di me e nella ola dei miei ormoni, l'abbracciai e la strinsi finché l'ultimo vagone del treno merci non lasciò la stazioncina di Preganziol. Riconsegnai nel silenzio ritrovato Priscilla al grumo. Il suo odore, le sue forme e la sua vita erano il mio personale trofeo. Continuarono a parlare per 2 ore. Io rimasi lì per evitare ripensamenti, ovviamente. Passarono altri treni, ma tutto andò bene. Quasi all'alba decisero di salire in 2 sul motorino. Li seguì con la macchina fino a dove si fermarono, a Mogliano, e li lasciai mentre entravano in una casa. Non ne sappi più nulla. Stava albeggiando e stavo arrivando a casa. Una luce era già accesa. Mi aspettava una strigliata da parte dei miei per l'ora in cui tornavo a casa. Decisi di prendermela. Era meglio tacere che preoccuparli dicendo che di notte passeggiavo sui binari della linea Udine-Venezia. Pila, arrivo in mezzo a quel casino dove c'è il parking e ci andai via. Bon dia, Paulin, tin, tin. Oi, ne muove da Ripping Floyd. Oi, ne muove da Ripping Floyd. Oi, ne muove da Ripping Floyd. Oi, ne muove da Ripping Floyd. Viaggiando su quel saterone prevolante, in vagone al ristorante, e vede sul ponte sti fioi, a Pia che va a vedere i Pink Floyd. Ridevi mo e dicevi mo, ma dove vuoi andare? Sti qua se proprio sto poi. Oi, oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Ci sono storie che sembrano uscite da quei film italiani di una decina o di una ventina d'anni fa, quei film in cui sono storie rocambolesche, quelli tratti ad esempio dai romanzi di Ammaniti, in cui quello che succede si complica sempre di più fino a che poi si risolve in una bolla e tutto torna ad essere non come prima, però diciamo il mondo è leggermente cambiato, ma comunque continua ad avere quel sapore strano in bocca. È esattamente così la storia di Randolfo. Pronto? Ciao Randolfo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, bene. A casa, come tutti. Che cosa fai tu nella vita, Randolfo? Ah, io ho un lavoro un po' particolare. Lavoro per un grande gruppo bancario e mi occupo di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Wow! E puoi farlo da casa? Sì, perché fortunatamente io sono uno di pochi di quei fortunati che con lo smart working lavora da casa. Sì, sì, il mio campo di battaglia è sui computer di solito. E dove vivi? Vivi sempre lì più o meno nella zona in cui è abitata la storia? Sì, praticamente sì, perché abito a Mogliano Veneto, in campagna adesso, però è praticamente a 2 o 3 chilometri da dove è successo tutto. Quindi puoi farti una passeggiata in campagna o meglio di no? Sì, sì, sì, qui sono... Io ripeto, una fortuna è essere in campagna perché puoi fare due passi. Certo, certo, certo, in questi momenti sì, certo, sì. È una mano dal cielo. Randolfo, senti, la prima cosa che vorrei chiederti è il tuo nome da dove arriva? Il mio nome diciamo è molto più comune nei paesi anglosassoni, perché Randolph, Randy, certo, certo. E tutto. Qui è stato un caso di un bisnonno, o se no io mi sono sempre, ho sempre pensato che erano gli anni 60 e magari i miei genitori facevano uso di sostanze non molto legali in quegli anni, quindi tutto qui. Chiarissimo. Senti, invece Groom e Priscilla sono veramente due personaggi di un romanzo di Ammaniti. Abbiamo scoperto chi erano, hai più avuto notizie di loro, no? Dopo qualche mese mi veniva la voglia di capire chi erano, dove perché sapevo che stavano a Mogliano, però dove li ho accompagnati, però dopo alla fine sai, la vita ti porta avanti, ti dimentichi di queste cose. Quindi non li hai mai nemmeno incrociati, so, Priscilla, perché Priscilla la descrivi abbastanza bene, insomma, su di te qualche memoria l'ha lasciata, anche fisica direi, da come ci racconti. Assolutamente, quello sì, solamente che dopo, anche passeggiando lì, non ho mai più incrociata. Senti, non arrivò nessun altro, quella sera siete sempre rimasti solo tu e loro due? Sì, perché erano le 2 di notte, e erano le 2 di notte, sempre è una strada che qui, anche qui, porta in campagna, e il caso volle che non passò proprio nessuno in quei minuti o decine di minuti, perché poi persi la cognizione del tempo, quelle situazioni perdi completamente il flusso del tempo. Uno dei miei passaggi preferiti è quando Grumo si scaglia con la testa contro il palo. Esattamente. Io pensavo fosse morto. E infatti, perché lui lo ha fatto realmente, non è come quando uno fa finta per attirare l'attenzione, cioè ha proprio dato una testata al palo. No, è partito come un ariete contro il palo e io ero convinto che ci fosse rimasto. Poi dopo ha cominciato a muoversi di nuovo e il palo ha cominciato a vibrare. Però dopo vibrava per un altro motivo. Ma tu parlavi con loro mentre eravate lì? Perché poi è stata lunga, no? Mi sembra di capire la cosa. Sì, dopo che è successo il tutto, quello che racconto racconto, sono stato lì almeno penso un'oretta e mezza a ascoltare che parlavano. Poi parlare era un po' difficile perché non erano proprio in condizioni perfette. Io sono piemontese, devo chiedere scusa a tutti i veneti per l'accento che ho usato quando ho letto il tuo racconto, perché chiaramente le parti in Veneto non saranno corrette. Senti, Randolfo, l'hai raccontata a qualcun altro questa storia? Mia moglie lo sa, okay. Gliel'ho raccontata, e forse qualche mio strettissimo amico, però dopo, come solite cose, non volevo farmi vedere. E poi, come alla fine dico, è così incredibile, pur vera, è così incredibile che era difficile che qualcuno proprio mi credesse subito. Poi era un ragazzo di 20 anni. Però ad esempio ai tuoi genitori, che comunque insomma ti hanno punito perché è arrivato tardo, neanche a loro hai mai detto di aver salvato due vite di fatto? No. Sono quei momenti che tu lo fai perché lo devi, sai, qualcosa ti dice che lo devi fare, punto. Poi quando è finito tu l'hai fatto. Io penso che sia quello che sta succedendo adesso a tutti i ragazzi che lavorano negli ospedali. Lo fai, punto, è il tuo dovere. Ti ringrazio moltissimo, Randolfo, soprattutto per la sobrietà con cui ci hai raccontato queste cose, quell'episodio e al riferimento che hai fatto a tutto il personale sanitario che sta lavorando in questo momento in questo paese. In bocca al lupo per tutto, grazie mille, Randolfo, a presto. Grazie a te, Matteo, grazie a tutti. Ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. James Mascalic è uno dei maggiori medici d'urgenza al mondo. Ha salvato centinaia di persone e ne ha viste altrettante spegnersi. Da tutte le sue esperienze nei pronto soccorso di tutto il mondo ha tratto un libro molto interessante in cui racconta i suoi sforzi di uomo e di medico. In Italia è stato pubblicato da Einaudi, si intitola Salvare una vita. In una puntata che si intitola Prima che sia troppo tardi, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Ho il turno di notte e non riesco a riposare. Anni e anni di turni di notte e ancora la stessa paura, la stessa eccitazione. Rotolo giù dal letto, mi vesto e metto su l'acqua per il caffè. Sui binari del tram, pronti a bloccarmi una ruota, la neve si scioglie in poltiglia marrone. Zigzago tra le auto in coda, leggo la bici a una recinzione ed entro. Ancora una porta e poi vengo investito dal frastuono della sala d'attesa. «Salve, dottore!» dice la guardia giurata che, ferma pochi passi più in là, con i pollici agganciati al giubbotto antiproiettile, tiene d'occhio un uomo agitato, accertandosi che non perda la calma. Attraverso la sala d'attesa. È piena. Due poliziotti siedono ai lati di un carcerato con una tuta arancione, la testa tra le mani e una catena alle caviglie che gli forma una pozza grigia in mezzo ai piedi. Le persone sedute alzano gli occhi in caso sia lì per chiamarle. Quando vedono che non sono un infermiere, tornano a guardare il telefono. Percorro il corridoio nell'area verde. Un uomo ubriaco su una sedia a rotelle attacca a gridare, cerca di tirarsi su. «Stia buono!» strilla un'infermiera. «Le ho detto che vengo tra un minuto!» L'uomo si calma. L'amore qui è spigoloso, ma è sincero. Punto verso lo spogliatoio. C'è di nuovo silenzio. È uno dei piaceri del turno di notte. Siamo così pochi a lavorare che trovi solidarietà in chi come te è sveglio e attivo nella città buia e immersa nei sogni. Il distributore di divise ronza, poi fa uno scatto metallico. Prendo un completo casacca e pantaloni dai suoi ripiani bianchi, mobili, mi sfilo i vestiti con cui ho girato per la strada e li sostituisco con un verde anonimo. Mi metto il cartellino con il nome e lo stetoscopio intorno al collo, una sensazione ormai familiare. Poi rubo una penna nera dalla scrivania. Le notti in pronto soccorso, a prescindere da quanto sembrino speciali all'inizio della carriera, non le vuole nessuno in realtà. Durante le ore piccole devi lavorare da solo e in fretta. Una giovane in camice bianco sbuca dal letto 11 e ci raggiunge. La accolgo con un sorriso. C'è anche una guardia, a qualsiasi ora. La teniamo per la sezione in cui ricoveriamo psicotici, aspiranti suicidi e drogati. Per finire, l'area verde. È la più trafficata. Solo un paio di infermieri, poco monitoraggio. Attese lunghe, problemi piccoli. Per noi, non male. Per i pazienti, una giornata pessima. Scorro le cartelle dei pazienti ancora da visitare. Dolori al petto, fiato corto, stato confusionale. I nomi passano in secondo piano, le persone diventano la loro malattia e il numero del loro letto. Con le visite è meglio non mettersi a fare difficili. Vai per ordine e stop, dando la precedenza a chi sta peggio, ovviamente. È questo che conta di più, che rivoluziona le cose. A tutti i pazienti formulo due domande in modo abbastanza diverso per ottenere risposte più chiare possibile. Cosa l'ha portata qui di preciso e perché proprio oggi? Poi guardo le scarpe. In realtà probabilmente lo faccio prima e nel caso non le indossi gli guardo i piedi. Mi dicono quanti soldi ha, dunque che tipo di cure potrà presumibilmente permettersi una volta fuori. A prescindere dal letto di partenza, quelli che stanno peggio si conquistano i posti avanti. Prima visitiamo loro e poi, appena possiamo, gli altri in ordine di arrivo. Lo ripeto così spesso alla gente irritata per l'attesa che lo vorrei scritto lampeggiante sotto la scritta pronto soccorso. Non cambiamo il nostro modo di procedere né per chi è ricco, né per chi sbraita, né per chi si è alzato presto per mettersi in coda prima degli altri, ma facciamo tutto il possibile per andare incontro a chi è più debole. Tutto qui. Di tutti i posti che conosco, il pronto soccorso è quello con la logica migliore. È per questo che lavoro qui. È una cosa che dà speranza. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Taxi, Jersey, back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Una voce gracchiante mi chiama, il dottor Maskalic è pregato di chiamare il triage. Ripeto, il dottor Maskalic è pregato di chiamare il triage. Guardo l'orologio, 3 di notte, bar chiusi, probabilmente un trauma. Scrivo in fretta una richiesta di antitetanica. Poso la cartella sul bancone e vado in area rossa, passando per la sala d'attesa. Il carcerato è tornato in prigione con un occhio nero, ma nessun danno al bulbo. Al suo posto, stravaccato, a gambe larghe, con il mento sul petto, c'è un ubriaco che russa. Due ragazze, con un abito nero e i tacchi alti, sono sedute fianco a fianco. Una ha la testa sulla spalla dell'altra e si tiene una borsa del ghiaccio su un polso. Mentre le sfreccio davanti, alza lo sguardo. Ha le guance rigate di mascara. Prendo un paio di guanti dal muro e una visiera di plastica da un carrello. Le porte si aprono sibilando. In bocca al lupo, mi dico voltandomi. Esco dal pronto soccorso per l'uscita laterale che dà sull'area riservata alle ambulanze e sull'esterno. La neve mulina sull'asfalto nero. Accompagnata dai beep della retromarcia, un'ambulanza accosta velocemente alla rampa e si ferma. Un uomo salta giù e corre a spalancare il portellone posteriore. A bordo c'è un altro paramedico accanto a una barella. La spingo giù e si precipitano su per la rampa. Mi affretto al loro fianco, tenendomi il camice chirurgico perché non svolazzi. Il giovane ha il viso gonfio, gli occhi ridotti a fessure. Dalla bocca spalancata gli escono bolle di sangue che poi esplodono imbrattando la maschera di gomma trasparente. Le porte della shock room si aprono, lascio passare la barella e nascosto da una tenda mi fermo vicino all'ingresso. Il paramedico comincia ad elencare i dettagli del caso. È questa la tensione che ti lacera qui dentro. Non solo devi riuscire a chiedere il farmaco giusto o evitare di lasciarti sfuggire una macchiolina bianca di sangue in un attack quando alle 4 di mattina hai così sonno che ti calano le palpebre. No, devi anche distribuire ciò di cui disponi dandolo a quelli che possono trarne davvero beneficio. Quindi ricovera in terapia intensiva persone che non riapriranno più gli occhi e finirà ai posti in un giorno. Versa sangue in chi non intende smettere di perderne e resterai a secco senza avere comunque salvato nessuno. Queste decisioni diventano più reali in posti come l'Etiopia, dove per una persona ci sono, se va bene, 2 unità di sangue, non 20. La sala è piena di infermiere e di specializzandi che fissano. Uno di loro lo intuba. È dura non intervenire, ma ci riesco. Lo specializzando in chirurgia è vicino al collo del paziente, pronto con il bisturi e la visiera di plastica in posizione. Quando il giovane è stabilizzato e mandato al piano di sopra per esami radiologici al volto, l'altoparlante sibila di nuovo. Una donna è scivolata mentre ubriaca e fatta ballava sul balcone sfidando la sorte. Arriva nello shock room con la testa rovesciata all'indietro, lo sguardo fisso e spento. È già morta. Diamo la notizia al fratello un'ora dopo, sotto luci bianche. Lui si fa forza e annuisce. Alle sue spalle il padre accarezza i capelli della donna, sussurrando le parole piene di calore all'orecchio. Alle 5 di mattina, una signora con un taglio al dito si presenta alla postazione infermieri. Del sangue le ha impregnato la benda. «È da più di 2 ore che aspetto, sa?» dice arrabbiata, agitandomi davanti la ferita. Mezz'ora dopo riesco a visitarla. Sciolgo la garza con cura, lei sorride e in quel metro quadro, sul finire della notte, un po' di sofferenza scompare. In qualche modo si fanno le 6 della mattina. A uno gli specializzandi scompaiono per un'ora di sonno nelle stanze riservate ai medici di guardia, sbadigliando e pregando che le ambulanze si tengano un po' alla larga. In giro per l'ospedale si cominciano a vedere le prime persone in servizio quella mattina. Lentamente il sole cancella i contorni scuri delle finestre velate di brina e a quel punto sento l'eco debole ma familiare del grido di vittoria che ho lanciato la prima volta che sono sopravvissuto a una nottata simile. Anche stamattina torno a casa, convinto che la medicina sia la vita che si prende cura di se stessa, e per me non esiste storia più bella. When I think of those eastern lights, muggy nights, the curtains drawn in the little room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And this one more beer, and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately. My friends out there rolling round the basement floor. Ooh. And someone saved my life tonight, sugar babe. Si intitola Salvare una vita, questo libro da cui abbiamo tratto questo piccolo racconto, pubblicato da Einaudi in Italia. L'autore è James Mascalic, che appunto è un medico d'urgenza, e probabilmente mai come in questo periodo ci è piaciuto raccontare questa storia per vedere com'è la vita al di là del vetro di un ospedale, la vita delle persone che indossano un camice e che ci accolgono quando noi arriviamo e semplicemente diciamo stiamo male, abbiamo bisogno di aiuto. E tra tutte le frasi di questa storia, io prima di lasciare la linea alle strade in diretta, vorrei ricordare questa che lui dice: qui in pronto soccorso facciamo tutto il possibile per andare incontro a chi è più debole e a chi ha più bisogno. Ora lasciamo la linea alle strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. E ora continuiamo a raccontare i diari che ci mandate giorno dopo giorno. C'è un diario di Marcella, che è un insegnante, e ci racconta che cosa accade in quello che è diventato famosissimo ormai in questi giorni: le lezioni a casa dei nostri figli, dei nostri cugini, dei nostri nipoti, che sono costretti a stare a casa come tutti noi, o perlomeno quelli che possono permetterselo, e devono però continuare a studiare. E quindi ci sono insegnanti come Marcella che trovano il modo per farlo. Il cellulare dice che c'è un nuovo contributo, poi un altro ancora, così dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Mi sono connessa con i miei alunni di quinta elementare tramite una piattaforma multifunzione dove c'è una chat, una pagina riservata all'invio di compiti e alla loro esecuzione, una specie di registro che non ho imparato ancora come funziona, a dire la verità. C'è poi WhatsApp con i genitori che cercano di capire a loro volta come organizzare la nuova giornata di scuola online. Perplessi, attivi, grati, a volte disperati. Federica piange perché nessuno le dà retta sulla chat, dicono. Federica la vedo 10 minuti dopo su WhatsApp e la sua faccia è bella sorridente. Non c'è traccia di tragedia, per fortuna. In pochi giorni la mia vita si è spostata completamente al tavolo. Tutto è apparecchiato davanti a me: tablet, computer, cellulare, libri. Passo dai tutorial su come funziona la piattaforma a preparare compiti, postarli, correggerli, restituirli, fotografare pagine del testo che è rimasto a scuola, inviare, connettermi, scrivere, correggere e scrivere ancora. Il momento più atteso è la video lezione, da loro e da me. A classe riunita, un coro di ciao e tutti che sorridono, quadratini sullo schermo con la mano alzata. Ti riattivo il microfono, leggimi l'analisi logica della frase. Bravo Ale, parla tu Matteo. Mi rendo conto che sono stanca. Prima lavoravo mezza giornata, ora la giornata qui è intera. Elena mi dice: uffa, un altro giorno senza la scuola. Sono andata sul drive per scrivere un compito e l'ho fatto. Poi dovevo fare copia e incolla come mi aveva spiegato mio padre. Quando ho fatto quello che mi ha detto, mi si è cancellato tutto il compito e l'ho dovuto rifare da capo per almeno 10 volte. Dopo un po' ho tirato un urlo. Mio padre è venuto e mi ha aiutata, ma quel giorno non è stato l'unico. Ce ne sono stati molti altri uguali. Mannaggia il coronavirus. Questo invece è un messaggio di Gabriel.

Stavamo già entrando nel mondo dell'euro. L'azienda produceva tutta una serie di manufatti che esportava in tutti i mercati del mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, per cui c'era tutta una serie di dinamiche in vista dell'euro da ricalibrare. Inutile dire che a casa non mi vedevano mai. Infatti mia suocera, che ha cresciuto i miei bambini, è stata bravissima. Poi sabato e domenica non c'era per nessuno, io comunque tornavo, li seguivo, li facevo tutto quello che era possibile, in giro a musei, giochi, le attività, sempre, però era diverso, era una serenità comunque diversa. Però doveva essere perfetto anche tutto il resto, casa in ordine, tutto a posto, le tende, le cose, la casa. Anche il divertimento doveva essere finalizzato a qualcosa. Andiamo in questo museo, andiamo a vedere questo, cerchiamo di diventare tutti più intelligenti. Tutto questo è successo dal tempo delle superiori fino più o meno i 35 anni. Per tanto tempo. Tantissimo tempo. Per 20 anni. Per 20 anni. E grazie mille ad Anna Maria per la storia che ci sta raccontando, grazie a Mauro che la raccoglie. Se voi per caso avete voglia di farlo, se anche voi avete voglia di condividere una vostra storia con Linee d'Ombra, sapete che in questo periodo potete addirittura condividerne di tre tipi. La prima è la solita storia che ha a che fare con un confine, in cui c'è un passaggio di una linea, ce la mandate a lineedombra@radio24.it. Oppure se avete voglia di condividere i vostri diari di quest'epoca, i vostri diari di quarantena, potete inviarceli anche quelli a lineedombra@radio24.it. Se per caso avete voglia di condividere invece dei messaggi audio in cui ci raccontate a viva voce delle piccole storie di rinascita, avete i contatti Instagram mio personale, oppure avete il profilo Facebook mio personale Matteo Caccia, oppure quello di Linee d'Ombra, in cui aprite i DM, cioè i direct message, i messaggi privati, e ci mandate un audio di 1 o 2 minuti. Potete mandarcene anche 2 da 1 minuto, visto che non vanno oltre i messaggi di Instagram. Soprattutto potete inviarci una storia di una piccola grande rinascita. Riascoltatevi il diario sabato, domani sera alle 21.30, in tutta la sua dimensione settimanale, cioè le 5 puntate della settimana riassunte alle 21.30 domani, oppure scaricate i podcast, ma soprattutto raccontate. State su con il morale, godetevi per quanto possibile il fine settimana. Noi torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!